quell'uomo si voltò per non guardarmi in faccia. Dopo tutto il tempo che ero stato ad aspettarlo, non sono io che posso farti dimenticare. Vado troppo piano o resto ad aspettare. Non è qui, non perder tempo, è lassù tra neve e vento. Il segreto è nei tuoi occhi, nella luce di un istante, di una stella che cammina e non può più volare, non pensa, non può più parlare, è ammuta fino dentro il cuore, non piange neanche se lo vuole. Povera stella, senza più luce da passare, precipita giù in fondo al mare, da un lato all'altro della vita, la stessa storia mai finita, povera stella. Mi nascondo dietro questi miei pensieri per non sentirmi solo. Dopotutto sono io che ho preso il volo. Se mi vuoi pensare, sai dove cercarmi. Anche al buio, a piedi, anche se tu dormi. Sono qui, non perder tempo, giù mi ha riportato il vento. Il segreto è nei miei occhi, non vedrò nel cielo neanche più una stella che cammina e non può più volare, non pensa, non può più parlare, è muta fino dentro il cuore, non piange neanche se lo vuole. Povera stella, senza più luce da passare, precipita giù in fondo al mare, da un lato all'altro della vita, la stessa storia mai finita, povera stella.